Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, siamo all'indomani dei quarti di finale di Coppa Campioni che hanno riconfermato, come sapete, la strapotenza inglese e a due giorni da Juventus-Inter, la partita che avrebbe potuto riaprire una stagione e che invece di fatto con 99 probabilità su 100 la chiuderà. Avrebbe potuto perché insomma ormai gli stessi dirigenti juventini, che pure in un passato anche recente non avevano badato a spese in materia di proclami, mi pare abbiano fissato ufficialmente nella difesa del secondo posto e nella Coppa Italia gli obiettivi stagionali superstiti. Quando si parla di calcio, lo sapete, l'interlocutore ideale si chiama Bortolotti. Bentornato ad Alberto. Grazie Gigi e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Oggi ti esibirai con abbondantemente, anche perché mi sollevi da un compito vocale abbastanza improbo, date condizioni non brillantissime. Partirei dall'Europa. Questo 3-3 di Arsenal, Chelsea e Manchester, che avevano fatto fuori rispettivamente Roma, Juventus e Inter, rivaluta indirettamente le italiane per quel che può valere o lascia le cose esattamente come stavano? Beh, come premio di consolazione può anche essere considerato, però resta il fatto che mi pare che la gerarchia attuale si vada via via consolidando e mi pare anche che la costante sia che solo il Barcellona rappresenta l'argine contro questa strapotenza britannica. Direi non a caso, perché l'alternativa al calcio inglese, anche se certi stereotipi poi vanno man mano perdendo significato, sono squadre inglesi in cui c'è un inglese sì e no negli undici. Tuttavia l'alternativa a questo tipo di calcio è rappresentato da un calcio tecnico, spettacolare, che solo il Barcellona riesce ultimamente a coniugare con i risultati. Certo. Il Barcellona di queste quattro squadre, credo raccolga, poi ciascuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe altro, ma così a grandi linee ho l'impressione che un po' per mettere fine appunto a questo strapotere, come fece per esempio il Milan, perché mi pare che l'ultima Coppa dei Campioni del Milan la vinse in mezzo ad altre tre inglesi in semifinale, esatto. Un po' perché, insomma, dato che l'occhio anche nel calcio vuole la sua parte, e una parte non piccola, mi pare che il divertimento che offre il calcio del Barça di oggi sia superiore oggettivamente a quello britannico. Sì, ma è chiaro che ogni appassionato di calcio fa il tifo per il Barcellona dentro di sé, così come lo faceva per quel Milan, che era spettacolare quanto questo Barcellona. Con tutto ciò, una partita come il return match fra Chelsea e Liverpool resta negli occhi e nella mente, perché in fondo giustifica questo predominio. Devo dire che purtroppo spesso succede, mi pare che le due squadre attualmente più forti si incontrano in semifinale, sì. Cioè Chelsea, che tra le tre inglesi era più in forma, sì. Non a caso ha battuto quella che io ritenevo più pericolosa sulla lunga distanza, cioè il Liverpool, e appunto questo Barcellona che nell'andata, con il primo tempo dell'andata col Bayern, onestamente ha offerto uno spettacolo, sì, sopraffino. Sai come ci consoliamo così, Alberto? Invece in una finale secca ne vediamo due di partite, no? Tra il Barça e il Chelsea. Esatto, ne vediamo due. D'altra parte il Chelsea dall'arrivo di Hiddink ha avuto un balzo in avanti notevolissimo. Allenatore che tutto quello che tocca o quasi tutto trasforma in oro, e il Manchester sì, a trovarselo alla fine non è un regalo per nessuno. Attualmente non è nel suo momento migliore, ma proprio come è prerogativa delle grandi squadre, nel momento non più brillante riesce comunque ad andare avanti, ecco, e quindi può anche ritrovare la perfetta condizione in occasione della finale. Mi sembra che nel confronto con l'Arsenal sia favorito, ecco. Manchester, che lo vedevo ieri sera, non so se condividi questa osservazione, quando non è al top è la più italiana, secondo me, delle squadre inglesi, no? Perlomeno italiana in senso tradizionale, cioè una squadra che cura innanzitutto la fase difensiva, poi in maniera moderna, difendendosi anche nella metà campo altrui. Però ieri sera Rooney mi faceva venire in mente Domenghini, no? in certe fasi di partita. Hai un talento di quel genere, ma il momento storico, se vuoi, ti porta a trasformare in un uomo di fatica, sia pure di qualità, più o meno, ecco, potrebbe essere così. Ma è così, noi l'avevamo già visto a Roma nell'altra edizione della Coppa, un Rooney terzino in pratica. Credo che questo renda onore al tecnico del Manchester, perché solo un tecnico di grandissima personalità può avere da un campione una tale disponibilità tattica, diciamo. E allo stesso giocatore, perché Rooney lo interpreta con entusiasmo questo suo compito, se vogliamo atipico, anche perché poi facendo la fase difensiva in modo splendido, quando si presenta davanti non dimentica mai di essere un attaccante di grande pericolosità. Ieri nella partita del Porto il Manchester ha fatto quello che facevano le nostre grandi squadre, cioè nei momenti difficili badi a non prendere gol, aspettando che un fuoriclasse davanti te lo inventi a sua volta, e quello che è successo ieri, perché il gol è un'invenzione di Cristiano Ronaldo. Però ci sta che avendo Cristiano Ronaldo ti regali un gol, se non sei stato abbastanza attento da evitare di prenderne diventa inutile, se invece sei stato attento questa prodezza ti basta per andare avanti. Certo, Giacomo fa notare in un messaggio che Wenger deve essere un po' matto, ma lo dice in senso ironico e positivo, perché andare in una semifinale di Champions con gente dell'85-87, pazienza, ma con un giocatore dell'88, uno dell'89, se pensiamo alle abitudini delle nostre parti, se pensiamo al Milan per non far nomi, beh, insomma, sembra quasi un'eresia. Wenger, l'Arsenal è questo, e per questo è anche molto divertente. Devo dire, ha avuto la semifinale più agevole, il Villarreal merita solo elogi, ma la sua caratura non è al livello delle altre che hanno disputato questi quarti di finale. Però Wenger questa politica la porta avanti da sempre, ha la fortuna tra virgolette di lavorare in una società, in un ambiente in cui questa priorità è riconosciuta in senso assoluto, addirittura non gli vengono imposti dei risultati, certo, che pure ha ottenuto, perché può tranquillamente mandare avanti questa politica di valorizzazione dei giovani, che si accoppia a un gioco molto gradevole. Infatti abbiamo detto il Manchester è la più italiana di questo quartetto inglese, il Chelsea è attualmente la più brillante ed equilibrata, ma l'Arsenal resta la più divertente. Direi proprio di sì. C'è un'osservazione en passant molto lusinghiera per il calcio italiano anche sui singoli, e cioè, per carità, sono le squadre che contano e le squadre sono fuori da un mese, però insomma qualcosina in più da Rossi forse, ma soprattutto da Toni con il Bayern si aspettava, non che un singolo possa fare squadra, ma Toni, che già sta attraversando un momento non brillantissimo anche in nazionale, anche come quotazione, gli ho visto l'altra sera al terzo minuto di partita, è chiaro che parti da 0-4 è un miracolo, però se al terzo minuto fai un gol perlomeno tieni viva la partita. Ma lui ha sbagliato un gol pazzesco per essere un colpitore, come, è vero? Un salto fuori tempo in modo clamoroso nell'entità dell'errore, insomma. Questo per uno specialista, poi. Ecco, per uno specialista in quel momento con un cross al bacio dalla destra veramente incredibile. Lui aveva fatto benissimo, cioè si era sganciato dalla marcatura in modo da liberarsi, come ha sempre fatto il miglior Toni. Poi ha sbagliato il salto, proprio, ha sbagliato il tempo del salto e non ha nemmeno tirato fuori bene il collo, che è proprio una cosa che per un colpitore di testa è abbastanza incredibile. Ma onestamente pensavamo di meglio dai nostri superstiti rappresentanti per delega, diciamo, nella fase finale dell'Europa per club, perché nell'andata Odder è stato abbastanza disastroso, insomma, onestamente, nella difesa del Bayern. Sì. Toni non si è mai visto ai suoi livelli, lo stesso Rossi ha giocato molto ai margini delle due partite, insomma. Cara Radio Rossina, Rossina ha giocato poco. Sì, pochino. No, ti leggo questo messaggio perché è molto, molto bellino. Cara Radio 24, cerco insieme anche a lei, penso, il perché dopo lo show del Barça di 7 giorni fa e lo show di martedì a Londra, le TV italiane, anzi la Rai, vadano a cercare subito dopo i servizi sulla partita con grande fretta gli episodi da Moviola. Ma perché? A chi interessano? E mentre noi guardiamo la Moviola, gli altri provano a vincere e ci riescono anche divertendo. Cosa ne penso? Beh, io penso personalmente... D'accordo, che mi astengo da ogni commento. Certo. Infatti Antonio da Vicenza parla come un libro stampato e i risultati si vedono, però, così permetteci un pizzico di pepe, non solo sui risultati delle squadre degli altri e sulle nostre, ma anche sulla qualità dei programmi degli altri e delle nostre, no? Se parliamo di TV sportiva, perlomeno. L'UEFA, leggo sul Corriere da Fabio Monti, non ha mica perso tempo, tu parlavi del 4-4, a inserire quel 4-4 tra le 10 migliori partite di Coppa della storia, che mi sembra un bel riconoscimento. Tra l'altro, tra le motivazioni per questo inserimento immediato c'è stata anche la lealtà dei protagonisti, perché non c'è stato un fallo cattivo, non c'è stata una reazione, sono state 5 ammonizioni in tutto, un rigore senza tracce di protesta, e anche lì misuriamo di nuovo, no, la distanza, certo, che ma non ci sono state proteste per tutta la partita, insomma, hanno badato a giocare e devo dire erano due squadre divise da una rivalità acerrima, che si è via via consolidata in partite ultimative con poste in palio altissime, e tuttavia una cavalleria in campo assoluta, pur nella durezza dello scontro fisico che non è mai mancata, no? Io sono rimasto entusiasta perché di 4-4 sono punteggi che in genere mi lasciano un po' perplesso, no? Penso a spettacoli per gente di bocca buona, no, quella è stata veramente una grande partita, anche nell'emozione dell'alternarsi, perché il Liverpool è rientrato immediatamente in una partita che affrontava con pochissime possibilità e poi via via si è rovesciata 10 volte, insomma. Poi ad Alberto non siamo più ai tempi breriani in cui per il sommo Gianni la partita ideale era quella che finiva 0-0, no? Perché significavano come delle volte 4-4 può essere troppo. Sono d'accordo, ma invece erano tutti gol guadagnati, non sono stati svarioni. Di portieri sì, ma non difese stracciate, cioè non aver perso il senso tattico della squadra. Scriteriati tatticamente. Ci sono stati gli errori dei portieri, e particolarmente Cech ne ha fatti più di uno, quello è vero, però nessuna delle due ha mai abbandonato la propria concentrazione difensiva, non ha mai lasciato campo aperto, se non qualche momento del Liverpool che disperato andava alla ricerca avendo ormai l'eliminazione segnata verso il finale, ecco. Il secondo capitolo di giornata, che direi che mentre questo si riferiva a ieri, si riferisce invece a domani, ed è questa sfida Juventus-Inter con tutte le valutazioni del caso, con la rivisitazione dell'articolo che ha scritto stamane per il Guerin Sportivo. Dato che siamo vicini agli aggiornamenti del traffico, per non interrompere il discorso, volevo prima leggere questa agenzia appena uscita, in cui Cobolli Gigli, presidente della Juventus, dice, virgolette, che la Juventus è convinta che il primo gol subito a Genova sabato fosse irregolare, ma spiega che la società non ha presentato alcuna riserva scritta, perché siamo convinti che le partite si debba vincere sul campo, e anche se in questo caso l'errore arbitrale era evidente, non sarebbe stato producente. Qualcuno gli ha fatto notare che i tifosi vorrebbero una dirigenza invece più forte, che si facesse sentire di più, e la risposta è stata: credo non sia necessario urlare per farsi capire, si può parlare anche con voce normale, e anche a me capita di sbattere i pugni sul tavolo, è meglio essere autorevoli, cosa che non dico di essere ma alla quale aspiro, che essere aggressivi, che è una, mi pare, una dichiarazione da sottoscrivere in pieno, anche perché rappresenta un'evoluzione rispetto a quel reclamo scritto di un anno fa dopo la partita di Napoli, che per quanti torti la Juventus avesse potuto subire, insomma, non rimane come una pagina non bellissima della storia della società bianconera. Arriviamo con Alberto Bortolotti a questa vigilia di Juventus-Inter, depotenziata, lo ripeto, dai 10 punti di distacco o di vantaggio, anzi dell'Inter, sui 21 ancora in palio, ma pur sempre una sfida che per prestigio e per classifica, perlomeno in teoria, resta la sfida che si aspettava per mettere la parola fine al campionato. Il titolo del tuo punto tecnico su Garino di questa settimana è: Ranieri ha fatto il massimo. Tu saprai, vero, che dall'80-90% dei tifosi juventini non può essere condiviso questo punto di vista? Sì, lo so perfettamente, ma so anche che Ranieri è stato bersagliato da critiche feroci, specie all'inizio, se ne è chiesta la testa senza mezzi termini, con toni direi inusuali per perentorietà. Mi pare che ha fatto il massimo, secondo me, non nella singolo episodio, ci sono cose che poteva fare meglio, per carità, ma nel proseguire il ritorno della Juventus verso valori di vertice. Penso, e lo meriterebbe la Juventus, che si classificherà seconda alla fine, e questo conclude una prima fase del progetto. Poi resta la più difficile, perché arrivare fino al secondo posto poteva essere una strada non impervia, poi l'ultimo passo resta il più difficile. Però nella conduzione generale di questa squadra, che ha avuto molte disgrazie quest'anno perché tutti hanno avuto infortuni, ma la Juventus si è vista concentrare gli infortuni volta a volta su un reparto, è stata un po' la difesa, è stato soprattutto il centrocampo, e ne è uscita secondo me in modo anche brillante, cioè lanciando giovani, un discorso che facevamo prima, un coraggio che alle nostre grandi manca spesso, lanciando giovani di valore fra l'altro, trovando alternative, recuperando giocatori che parevano perduti. Ho visto persino riproporre Thiago, che poi non ha fatto così male come lo si era giudicato, Marchionni, un giocatore che sembrava perso per varie ragioni. Io credo che abbia fatto un buon lavoro e che meriti di proseguirlo. Mi fa piacere che leggere oggi che la società è dello stesso avviso. I tifosi certo chiedono tutto il massimo, i tifosi chiedono anche alla società di urlare, ma in fin dei conti nel nostro piccolo Genoa-Juventus è stata una bellissima partita, nel nostro piccolo, diciamo, di dimensione italiana, perché prima parlavamo di bellissime partite in assoluto, e rovinarla con un ricorso mi sembra indice di quella mentalità che dovremmo perdere a vantaggio di quella che ha contrassegnato lo scontro fra Chelsea e Liverpool. Cioè, se non riconosciamo mai i meriti dell'avversario, se vogliamo sempre attaccarci a qualcosa, si fa poca strada. Completamente d'accordo. Senti, io continuo non a fare l'avvocato del diavolo, perché la penso come te, e penso che Ranieri quest'anno in più di una circostanza abbia anche cavato sangue dalle rape, in più di una circostanza, in altri casi può avere commesso degli errori, come credo che appartenga al genere umano. Tra le accuse che più frequentemente gli vengono mosse c'è quella di avere voluto, a proposito di rape, adesso usciamo da questa cosa, ma insomma, a proposito di giocatori di qualità limitata, di aver voluto Poulsen scartando Xabi Alonso. Ma io mi domando, e domando a te, ma siamo sicuri che queste scelte non sono in realtà il frutto di valutazioni economiche, di che alla fine l'ultima parola sia una società? Cioè, davvero un tecnico, perché se davvero avesse detto no, a me Xabi Alonso non serve, io voglio Poulsen, allora non dico un capo di imputazione grave, ma io credo che alla fine invece in una stagione e in una sintonia tra tecnico e dirigenza ci siano delle mosse concordate che tengono conto di più parametri, io credo, o sbaglio? Ma io la penso esattamente come te, e penso che poi la verità su certe operazioni la conoscano in pochi e non la vadano a raccontare in giro. Penso anche che l'accusa di volere giocatori di scarsa qualità colpì Ranieri anche quando si prodigò per l'arrivo di Sissoko, che poi è diventato il giocatore simbolo di questa Juventus e la cui perdita stagione in corso è pesata moltissimo, non dico nell'esito finale del campionato, che secondo me è giusto così, ma se non altro nelle dimensioni del distacco, perché perdere Sissoko per la Juventus ha voluto dire perdere molto, probabilmente perdere più di tutti gli altri giocatori che avevano una alternativa più attendibile in squadra. Ecco, soltanto Chiellini, se fosse mancato a lungo, e lui è stato così bravo da rientrare anche in condizioni non ottimali, avrebbe pesato altrettanto, ma i giocatori fondamentali senza una testuale alternativa non erano tanti nella Juventus, e Sissoko mi è parso uno di questi, uno di quelli di cui la cui mancanza si è pagata più caro, mentre invece Ranieri è stato bravissimo a trovare un'alternativa per un giocatore che io credevo quello più fondamentale di tutti, cioè Camoranesi, che aveva fatto un inizio in cui era il regista della Juve, il suo uomo cardine, ma che con pazienza e con diverse soluzioni e con il recupero per esempio di Marchionni è stato sostituito senza grandissimi scompensi. Alla fine la vera differenza che tu hai indicato nella tua analisi mi pare sia quella richiusa in quel capoverso in cui dici: dunque l'Inter è micidiale in trasferta e fortissima in difesa. Quando tenevano banco le polemiche su Mourinho, il grande Osvaldo Bagnoli, scrivi, richiesto di un parere sul funambolico portoghese, se la cavò in poche parole. L'Osvaldo non ha mai amato i discorsi inutili e disse: Mourinho, un bravo difensivista. Intendiamoci, non era una bucciatura, ma la si direbbe una conferma dei dati che abbiamo sottolineato. Se noi a grandi linee mettiamo a raffronto tutti i reparti, cioè le due squadre, Juventus e Inter, reparto per reparto quest'anno, la vera grande differenza la fa proprio la difesa, mi pare. Anche perché avendo l'Inter un po' alla volta disintegrato il proprio reparto attaccante, che era sovrabbondante, ma adesso si trova ridotto ai minimi termini, perché a un certo punto abbiamo Ibra e Balotelli quasi senza cambi, se non abbondantemente depressi da valutazioni tecniche, no? E così la Juventus ha un attacco infinito. Sì. Perché se prende l'ultimo del mazzo, che è Iaquinta, e questo diventa il più bravo di tutti e il più decisivo nella fase finale, questo dice tutto. In difesa è sempre antipatico fare nomi, perché ad esempio un giocatore come Molinaro ha fatto il massimo, non gli si può dire niente, ma tu hai Maicon e Maxwell, poi sostituito dalla grande rivelazione di questa stagione Santon, e lo opponi a Grigera e Molinaro, beh, lì la differenza c'è, c'è poco da fare. Anche oppure perché quando nel centrale ti manca Chiellini e l'Inter può scegliere fra 5, tu ne hai 3, di cui il terzo già un po' vacilla, ecco, è lì che si crea la grande differenza. Anche perché quando hai dei nomi di minor spicco, quando hai giocatori meno di qualità, diciamo pure, in mezzo al campo, come la Juventus oggettivamente ha, puoi supplire col dinamismo, con altre risorse, con altre qualità, ma in difesa no, In difesa ci vogliono proprio anche le qualità individuali e tattiche. Tra l'altro, nel confronto, la Juventus partiva avvantaggiata in un ruolo che era quello del portiere. Diciamo la verità, anche perché l'ha detto lo stesso Gigi Buffon, che è un giocatore tanto grande quanto onesto nei giudizi. In questo campionato è stato più importante Giulio Cesare di Buffon. Mi pare che l'analisi sia davvero completa. Un caro abbraccio qui dal sanatorio dello studio centrale di Radio 24. No, grazie ad Alberto Bortolotti. Grazie, chiudiamo questo collegamento. Sentiamo almeno un ascoltatore campione, magari due, prima di arrivare poi alla seconda parte della trasmissione. Tommaso, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Intanto le volevo fare i complimenti. Tra l'altro ho appena finito di leggere un suo libro, non so se lo ricorda, Nereo Rocco, la leggenda del parò. Me lo ricordo. Bellissimo. Grazie. Io volevo intervenire sulla questione allenatore Ranieri e Juventus. Sì. Io sono molto deluso, devo dire, da tifoso juventino, dal nostro allenatore. Deluso perché ha dimostrato di non saper gestire, sia tatticamente che anche a livello umano, la squadra o lo spogliatoio. Abbiamo preso per la quinta volta lo stesso gol col Genoa, col Cagliari, il 3-2 in contropiede. Voi ditemi se una squadra grande come la Juve non riesce a correggere degli errori così banali che tatticamente, con i giocatori che ha la Juventus, basterebbe parlarne, queste riunioni tecniche a cosa servono? Sempre i gol in fotocopia, sembrano i gol delle squadre che retrocedono. Che Tommaso, se... E detto questo, poi arrivare a meno 10 da un Inter che poi non è così stratosferica come si dice, perché ha anche le sue debolezze, prima di uno scontro diretto nei quali c'erano tutte le premesse per poter arrivare, non per vincere lo scudetto, ma almeno per far sì che i tifosi potessero sognare o crederci senza sentirsi umiliati da questo meno 10, devo dire che a questo punto una grande squadra come la Juve deve avere o allenatori di prima fascia, i Capello eccetera, oppure se non sono disponibili ricominciare da allenatori giovani che possono diventarlo come la mi piacerebbe, sa, io sarei molto curioso, Tommaso, di vedere gli allenatori di prima fascia, come dice lei, i Capello, i Lippi, ci metta chi vuole a sistemare una difesa con Grieger a Melberg, e mettiamoci pure anche Molinaro, pur con tutto il rispetto perché è un grande agonista, e, ma direi anche con l'ultimo Chiellini, le Grottaglie e gli altri protetti non da Sissoko e Zanetti, che se ci fossero loro sarebbe un altro film. Sarei proprio curioso di vedere i grandi allenatori che dice lei alle prese con questa rosa. C'è anche una vigilia superstite di Coppa per una squadra italiana, visto che stasera l'Udinese tenta la rimonta non facile contro il Werder Brema, partendo dall'1-3 dell'andata di una settimana fa. C'è una diretta prevista sulla 7 alle 20:45. Sentiamo brevemente la vigilia dell'allenatore Marino. Credo che l'assetto tattico del Werder non cambi se gioco o meno Diego. Sappiamo quello che dobbiamo fare, non c'è da aspettare niente, sappiamo il risultato che serve per passare, quindi non possiamo essere timorosi, magari come è stato un po' il primo tempo all'andata. Questa è la vigilia di Marino, che si augura ovviamente che Diego, il più talentuoso degli avversari, non ci sia, così come d'altra parte l'Udinese deve rinunciare per esempio a uno come Di Natale. Lo Spartak Mosca ha appena esonerato Mikael Laudrup. Laudrup, insomma, ex grande campione danese, e tra l'altro con una lunga esperienza nella Juventus, oltre che in squadre spagnole, ha avuto esperienza da tecnico in questi anni un po' in giro per l'Europa, era arrivato allo Spartak nel settembre dello scorso anno, quindi ha stagione in corso, è arrivato ottavo, ma adesso una squadra 9 volte campione di Russia, dopo uno 0-3 contro la Dinamo nei quarti di finale di Coppa di Russia, ha deciso che l'esperienza poteva ritenersi conclusa. Tocca a Claudio dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. La chiamavo perché è incuriosito da questa puntualizzazione da parte dei giornalisti nel far notare che nelle squadre inglesi giocano pochi giocatori inglesi. Se prendiamo la nostra Inter, che è senz'altro la squadra più titolata ad arrivare in fondo a questo tipo di torneo, di giocatori ne giocano molto pochi. Insomma, quest'anno ci sarà anche Santon, ma è arrivato anche Mourinho in concomitanza. E poi volevo anche dire che è senz'altro molto più straniero per una squadra italiana un giocatore francese o svizzero che non per una squadra inglese un giocatore gallese, irlandese o scozzese, tutto lì. Certo, ma non è vero però che non questa cosa non sia stata accentata da parecchio tempo, da anni ormai, perché in effetti la globalizzazione, no, nel mondo del calcio mi pare che anziché imporsi abbia ormai addirittura trionfato, soprattutto in certe nazioni. C'erano due giocatori soltanto, mi pare, di scuola inglese, di nazionalità inglese, l'altra sera in Chelsea-Liverpool. Sicché è vero che festeggiare Chelsea-Liverpool come la più grande partita, sto riprendendo il ritaglio del Corriere della Sera di oggi, come ha fatto l'UEFA, come una delle migliori 10 partite di Coppa di sempre, ha un senso, cioè nel senso di una delle 10 migliori partite di Coppa, festeggiarla come un trionfo del calcio inglese, un tantinello meno perché c'erano due inglesi che giocavano, o tre forse su 22. Franco dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, allora io non sono un grande esperto di calcio, visto che quello che so di calcio è ascoltando con le cuffiette la sua trasmissione, per cui di fronte a tanti che sanno tutto io mi pongo in seconda fila. solo che volevo un parere da parte sua. Io mi chiedo a volte se le squadre le fanno i procuratori o i tecnici o le società, perché c'è un giocatore che da anni credo sia una stella, che è come Fabregas, che credo valga 5-6 Quaresma e Mancini. Possibile che un giocatore del genere non lo vedano o non riescano quei stessi soldi a portare a casa? È una cosa incredibile, non lo so. Franco, però cioè, vederlo penso che basti avere gli occhi, no? per vedere che Fabregas è un grande giocatore. Poi da vederlo a prenderlo è diverso, perché l'Arsenal non si fa portare via i Fabregas, semmai li va a cercare. Fabregas, io non so esattamente che clausola di rescissione abbia fissato Wenger per lui, però certamente una somma spropositata. Questo fa parte dei giocatori che bisogna avere il coraggio di andare a comprare anche a caro prezzo quando hanno 18 anni. Magari non a 16 e non a 15 come gli inglesi amano fare, se ne è parlato la settimana scorsa, non dico tratta dei minori, ma quasi. Però quando ne hanno 18 e sono campioncini in ascesa. Fabregas, tra l'altro, è uno spagnolo, non è che manchino le società spagnole di primissimo livello che avrebbero potuto investire su di lui in futuro. Il primo a crederci davvero è stato l'Arsenal e Fabregas oggi gioca lì, ma io credo che né Juventus, né Inter, né Milan, né Roma, né Napoli, né Fiorentina, mentre chi voglia, disconosca, cioè non abbia qualcuno in grado di vedere che questo è uno dei primi 3-4 costruttori di gioco oggi al mondo. Il problema è andare a levarglielo, però, e questo credo che sia non sia semplicissimo. Da Bergamo, Francesco, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo dire che dopo la partita Juve-Genova ho deciso che non seguivo più il calcio. E questo perché credo che l'errore di Rocchi sia un errore non di interpretazione in buona fede, ma un errore tecnico, ed è assurdo che venga convalidato un gol a gioco fermo. È una cosa assurda questa, e credo che il calcio abbia perso un apporto di verità, cioè che non ci sia verità nel calcio se questo accade, e che somigli un pochino al wrestling, cioè una specie di spettacolo senza che ci sia nulla di vero, gestito solo dal potere, delle dirigenze, dei giornalisti e dei media. Penso che se fosse accaduto con la Juve di Moggi sarebbe stata la guerra civile. Io penso, Francesco, che se si tratta di esagerare, lei certamente non è uno che manda un altro, mi pare di capire, dalla prima parola all'ultima del suo intervento. L'errore di Rocchi a Genova è stato il più grave di tutta la stagione, l'ho detto fin dal giorno dopo, anzi dal giorno dopo no, perché a Pasqua non eravamo in onda, ma dal lunedì di Pasqua, che eravamo qua in diretta, sì. E è stato certamente l'errore più grave di quest'anno, perché il fischio gli è scappato. Non mi parli di malafede, perché un arbitro non si fa scappare un fischio se vuol farsi scappare un fischio poi lo rispetta, invece il fischio gli è proprio scappato, questo è evidente, quindi già questo basterebbe a depenalizzare dal reato di presunto di malafede, come lei ha detto. Ma ripeto, di fronte a un intervento fanatico come il suo, insomma, diventa un po' difficile, no? Mettersi a confutarlo, pur riconoscendo la fondatezza del presupposto, cioè la gravità dell'errore commesso da Rocchi. Le ripeto, il peggiore di tutto il campionato, senza alcun dubbio, e mi aspetto provvedimenti da Collina nei confronti di Rocchi. Se dovessi vedere Rocchi personalmente, dovessi vedere Rocchi ridisegnato come niente fosse in una delle prossime giornate, magari per partite di cartello, allora comincerei a pensare che Collina, che in altri casi ha avuto la forza e il coraggio doverosi di punire, di castigare, insomma, gente da lui amministrata che aveva sbagliato, userebbe due pesi e due misure se non lo facesse con Rocchi. Dunque, in campo, mi informa Flavio Suardi, c'erano Cole Lampard nel Chelsea e Carragher dalla parte del Liverpool. Era la bellezza di 3 su 22 a proposito di calcio inglese. Sandro dalla provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io volevo solo dire che ho sentito parlare tantissimo oggi nella sua trasmissione del calcio inglese, del calcio spagnolo, ma dell'Udinese che gioca stasera proprio non si è sentita pochissimo. L'unica squadra rimasta in Italia ancora in Europa. Ce ne parli lei, Sandro. Sandro, dato che abbiamo appena finito di sentire la voce di Marino, di ricordare quando c'era diretta, ce ne parli lei? No, cioè, semplicemente cioè... probabilmente stasera uscirà l'Udinese, ma se fosse rimasto l'Inter, per fare un nome, o il Milan, l'unica squadra italiana, sarebbe iniziato la trasmissione minimo con una trasmissione su cosa pensa Mourinho, cosa ha mancato, cosa ha fatto. Sì. Sandro, io purtroppo ho perso nel tempo che passavo dal telefono alla radio, probabilmente mi sono perso il più bello. Sì, lei è sicuro, lei per esempio ricorda quando c'è stata quella settimana in cui c'era il Milan impegnato in una doppia partita con il Werder Bremen, si ricorda delle edizioni straordinarie di questa di Radio 24 di A Tempo di Sport? Veramente no, sul Milan Werder Bremen, no? No, me lo ricordo. E allora una parità di trattamento, glielo spiego subito, perché detto in termini molto educati, della Coppa UEFA non frega nulla a nessuno, se non a quella squadra direttamente interessata. È ovvio che lo rispondo in termini brutali per provare ad andare abbastanza pari rispetto al suo intervento, però il fatto è che se ne può parlare domani, semmai, nel senso che domani si rivisita la partita, o meglio, si rivisiterebbe la partita se... in questa radio il venerdì non fosse dedicato al basket, essendo dedicato al basket non mi è possibile farlo, ma grandi programmi di vigilia per una partita di Coppa UEFA qui negli ultimi anni, da quando la UEFA è stata, non per volontà nostra, completamente svuotata di ogni contenuto a vantaggio della Champions League, non ne ricordo, le ripeto. Le ho fatto un esempio molto concreto, la doppia sfida del Milan col Werder Bremen trattata con ancora minore interesse rispetto a quella dell'Udinese col Werder Bremen. Lorenzo dalla provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Digi. No, le volevo chiedere un parere per quanto riguarda questa vicenda di Felipe Melo, no? Ecco, sono fiorentino, però io stamattina, appena ho letto del ricorso di Della Valle, sono rimasto un po' stuccato, perché insomma se io fossi Della Valle invece di fare un ricorso avrei preso per un orecchio il bambino, insomma. Ecco, io volevo sapere un po' cosa ne pensava, visto che non conosco neanche bene i fatti. Non li conosco bene nemmeno io, Lorenzo, nel senso che non li conosce bene nessuno. Si è parlato di una rissa, in un primo tempo sembrava che la dinamica fosse stata diversa, poi invece si è parlato di una rissa. La punizione ha riguardato in identica misura ambedue i violenti, e cioè Felipe Melo da una parte e Lopez dall'altra, e mi pare che il giudice sportivo abbia usato una mano pesante con l'uno, sia con l'uno che con l'altro, quindi in pratica attribuendo ad entrambi pari responsabilità. In assenza di in assenza di ulteriori elementi non credo sia facile entrare nel merito. Si può entrare nel merito di un ricorso, questo sì. Io la penso esattamente come lei, penso che di fronte a, cioè, se c'è stata una squalifica di questa gravità, penso che l'episodio fosse di gravità commisurata. In questa domenica in particolare Tosella ha avuto la mano pesante, perché come l'ha avuta per esempio per Mexès e Matusalem per la rissa in campo all'Olimpico, e l'ha avuta pesante perché io credo perlomeno le premesse di un sabato calcistico non solo e non tanto pasquale, ma dolente per le ragioni che sappiamo, con tanto di minuto di silenzio, con tanto di lutti al braccio, eccetera eccetera, insomma, facevano a pensare ad un altro andamento disciplinare, no, sul campo. Per chi ha sgarrato, e ha sgarrato in questa maniera, in quella maniera così volgare, c'è stato un trattamento di particolare severità che mi pare assolutamente auspicabile. Dopodiché mi ero dimenticato di far notare a chi fosse sfuggito che ieri sera il Manchester ha giocato con il lutto al braccio per le 96 vittime tra i tifosi del Liverpool 20 anni fa, esattamente 20 anni ieri, nello stadio di Sheffield. Insomma, considerata la rivalità acerrima, estrema, che c'è sempre stata tra queste due società, tra Liverpool e Manchester, dire che sia stato un bel gesto credo che sia davvero il minimo. Pietro ha chiamato da Varese, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno. Pietro, mi scusi tanto, sono in ritardo clamoroso e non ho visto che era ora della viabilità. Rieccolo, Pietro da Varese, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Io volevo tornare un attimo al discorso di Ranieri e la Juventus. Cioè, ai tifosi bianconeri, dei quali io mi sento di far parte, volevo soltanto invitarli a non attribuire tutte le responsabilità, cioè, che è già stato detto da lei e da Bortolotti, a Ranieri. Cioè, piuttosto magari provare a chiedere alla società di impiegare qualche soldino in più e sistemare quello che va sistemato nella squadra. Vale a dire, la difesa e il centrocampo, e poi di un portiere mediocre, come qualcuno l'avrebbe definito, Buffon. Io vorrei averne tanti squadre così. Ecco tutto. Me l'immagino, Pietro. Me l'immagino che qualunque squadra, tolto forse in questo momento l'Inter, ma poi parliamone a gioco lungo, qualsiasi squadra credo vorrebbe avere in porta Buffon, tant'è vero che la Juventus sta pensando addirittura di se potrebbe essere opportuno cederlo per ricostruire una parte di squadra con i proventi di Buffon, che significa che evidentemente in giro è ancora discretamente reputato. Facciamo un intervallo con il ripasso di storia di Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 aprile 1899. Il Genoa conquista anche il secondo campionato italiano di calcio. Nella finalissima disputata in casa, i Liguri, in maglia bianco-blu, battono l'Internazionale Torino nella riedizione della sfida decisiva dell'anno precedente. Tra il 1898 e il 1904 il Genoa ha conquistato 6 scudetti su 7. Nel dominio esercitato dal Grifone è risultato fondamentale il ruolo svolto dal medico inglese James Pensley, allenatore, difensore e in caso di emergenza anche portiere. Torniamo in onda con alcuni ascoltatori che ricordano come non ci sia stato soltanto l'errore di Rocchi sabato sera in occasione del fischio preventivo sul primo gol del Genoa, ma poi ce ne siano stati altri, insomma tutte cose già dette stradette ieri l'altro, e cioè quello è stato l'errore grave, ripeto, il più grave errore di stagione, quando un arbitro scappa il fischio, il gioco è fermo e deve avere il coraggio di far rispettare il suo fischio anche se gli è sfuggito involontariamente. Da lì poi la caccia alla compensazione, che è partita nella testa di Rocchi e che si è attuata attraverso un rigore regalato del Piero e alla mancata espulsione di Nedved, nonostante un uomo sanguinante a 3 metri da lui, senza nemmeno interrompere il gioco, ripeto, per ragioni di incolumità, per ragioni di intervento doveroso da parte sua, io ripeto, spero di non vedere Rocchi nelle prossime uscite arbitrali, perché se no significherebbe significherebbe che non c'è parità di trattamento. Ecco, Alessandro da Novara ha chiamato, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io sono di nuovo sul gol del Genoa, sì. Ma non potrebbe intervenire la prova TV come interviene con i calciatori, con i commissari in tribuna? No, sull'errore tecnico non c'è prova TV, sull'errore tecnico c'è soltanto l'ammissione da parte dell'arbitro, oppure il ricorso di parte, l'arbitro non ha ammesso ovviamente l'errore, non lo fa mai, o praticamente mai, e il ricorso di parte, come ha sentito nelle parole di Coboli Gigni, non c'è stato. Io comunque non sono un tifoso della Juve. No, ma come è giusto che sia, perché gli errori li commettono tutti, gli arbitri come i giocatori, ce ne sono di quelli particolarmente gravi che devono costare qualcosa, quelli che Rocchi ha commesso l'altra sera a partire da quello sono di una gravità assoluta, e quindi io credo che sia giusta una punizione per uno che sbaglia così tanto. C'erano altri due inglesi l'altra sera, informano alcuni ascoltatori, sbagliando però, perché c'erano altri due inglesi presenti, ma erano presenti in tribuna, però erano Terry per il Chelsea e Gerrard per il Liverpool. Certo, se fossero stati sani avrebbero portato il totale dei presenti, anziché a 3 su 22 a 5 su 22, cambiava leggermente la percentuale di incidenza degli inglesi di nazionalità, non cambiava il discorso, certamente la sostanza, che vuole con tutta evidenza una maggioranza di stranieri, insomma, ormai schiacciante. Ecco. Ha chiamato Marco da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, io soprammetto di essere interista, sì. E voglio dire, spero che, viste le ultime partite di Champions League soprattutto, le squadre italiane, l'Inter ovviamente, perché visto che sono interista, possano migliorare drasticamente, possiamo dire, le loro qualità, acquistando giocatori, spero, o comunque formando giocatori, spero, italiani, ma anche se sono stranieri, a questo punto chi se ne frega, visto che vincono comunque anche squadre imbottite di stranieri, sarei ben contento di arrivare alla Coppa dopo molti anni. Detto questo, voglio dire che mi sembra che i tifosi juventini siano un po' troppo brutali con Ranieri. Ricordiamo a tutti che la Juventus ha nella sua rosa 7-10 giocatori che la Juventus la dovrebbero guardare da casa mentre ci giocano, cioè, ed è seconda a giocarsi un campionato, per quanto mi riguarda, conoscendo l'Inter, non è ancora finito. Magari conoscendo l'Inter. Conoscendo l'Inter non è male, non è male in effetti, detto da interista, e quindi con cognizione di causa. No, io penso che anche conoscendo l'Inter il campionato sia davvero finito, però è vero che questo ripasso ogni tanto andrebbe fatto. Sentiamo un frammento di Moratti a questo proposito sul conto di Adriano. Che si incontrino le persone che sono addette a questo incontro, avvocati e altri, e poi vedremo cosa salta fuori. Si sarebbe disposto anche a rescindere il contratto, la sua volontà? Forse sì, può essere una delle soluzioni. Possiamo togliere la libertà a chiunque di fare le scelte che desidera nella sua vita, quindi questo. Però insomma adesso in questo momento qui le strade sono più o meno quelle, poi vedremo se c'è qualche altra idea interessante, la valuteremo. Questa è una svolta direi definitiva, no? sul conto di Adriano, perché la società, e Moratti in particolare, lo ha sempre difeso, ha fatto l'impossibile per recuperarlo alla vita, direi, insomma, alla vita sportiva, alla vita calcistica, a comportamenti normali. Adesso evidentemente anche l'Inter, anche Moratti si è arreso, ed è chiaro che è una rinuncia che costa un mare di quattrini, perché se solo pensiamo a ancora 2 anni fa quali erano le offerte per Adriano, beh, immagino che adesso si parlerà di cifre ben dopo la rescissione del contratto o in caso eventuale cessione si parlerebbe comunque di ben diverse somme. Antonio ha chiamato la Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei Garanzini, complimenti. Dica. Per la trasmissione. Sì. Io sono milanista, ma volevo spendere una parola a favore di Ranieri, perché obiettivamente ci sono tanti altri tecnici stimati dagli juventini, esempio Brandelli, che io stimo anch'io, che sono arrivati dietro la Juventus, nonostante che abbiano delle squadre che poi come giocatori si equivalgono alla stessa Juve. La Juve è seconda, allo stato finora lo scudetto, penso che gli juventini a Ranieri dovrebbero dire solo grazie. Certamente sì, e se non dire grazie, comunque vedere di evitare come minimo i linciaggi, poi il dissenso è un conto, il linciaggio è un altro. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Sì. Senti, io spendo una parola del Napoli, sono l'altro di Donatoni. E io l'ho visto in queste 4 giornate che c'è lui, non ho visto nessun cambiamento della squadra. E lo credo bene. I giocatori sono gli stessi. No, ho visto. No, ma proprio di gioco, proprio ho visto, anzi, specialmente con la Sampdoria, con l'Atalanta, proprio. Non vedo nessuna novità, nessun niente, nessun gioco. Vedo il portiere, anche se abbiamo un portiere, un certo Lavarro, per l'amor del cielo, uno. Però abbiamo, cioè, un portiere del genere che pigliava 2 gol su punizione, 2 tiri che aveva fatto la Sampdoria. Cioè, abbiamo un portiere dove abbiamo preso Bucci, non so cosa lo trovo. Bucci l'ha preso a un certo punto perché c'era una strage di portieri, c'erano 4 su 4 infortunati, hanno dovuto ricorrere a Bucci come estrema risorsa. Ma cosa credeva che potesse cambiare? Solo De Laurentiis, solo un presidente che cosa poteva cambiare? Che nel frattempo aveva anche perso i giocatori migliori per infortunio fino a fine stagione, e la squadra ha cominciato troppo presto in estate per poter recuperare una condizione. Il Napoli quest'anno era destinato a un finale abbastanza triste, che lo gestisse Reia o che lo gestisse uno che gli subentrava, guardi, era grosso modo la stessa cosa. Con Reia, conoscendo meglio i suoi poli, probabilmente sarebbe anche andata meglio, e Donadoni sarebbe partito per un'avventura nuova senza portarsi i carichi di quest'anno sul groppone. Ma questi sono discorsi troppo saggi per lasciarli agli uomini che governano il calcio. Grazie a Filippo Aureggio in regia, a Flavio Suardi in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto e l'attenzione. Giornale Radio.